Oggi si parla di concorsi di bellezza per le bambine dai 3 ai 16 finalmente, anni. Finalmente una cosa che possiamo... A me piacciono queste trasmissioni dove ci si mette e si fa qualcosa. Allora, ci iscriviamo a un concorso di... Iscriviamo una bambina, solo che non ci sono più bambine. Esatto. No, noi no, perché siamo vecchi, però possiamo sempre provare con qualcuno dell'asilo tipo, a iscriverlo a questi concorsi. No, Drago. Sai quelli che fanno non diventare famose le baby... modelle degli Stati Uniti. Cioè, tu vorresti iscrivere al bambino Alberto? Secondo me è l'unica. Ma non è un... capisci? È brutto. Ma il make-up... È brutto, è pingue. Sì, ma si può fare un miracolo. Si può fare un'operazione situazionista. Cioè, noi lo iscriviamo per essere provocatori contro... Hai capito? Così ci sta. Così siamo anche dalla parte della ragione. Così. Infatti. Dai, facciamolo allora. E ora, bambini, ricreazione! No, ma le sopracciglia non vanno bene, bisogna pelargliele. Sì, sono troppe, sì. Cosa fai? Che state parlando con me? Sì, tu, dai, vieni un attimo qua. Fatti vedere. Bambino Alberto, vieni qua, dai. No, vabbè, la pelle anche, la pelle è un trattamento. Ma sei pieno di punti neri, cos'è quella roba lì? No, questo è un nevo. È un nevo. Ma che nevo? Un nevo sospetto? Un neon. No, poi alla fine si è scoperto che è un punto nero. Ah, vedi? Punto sei pieno gigantesco. Dai. A me cosa mi interessa? Cioè, cosa devo fare? Devo mica andare sul giornale, no? Sì, invece altro che sul giornale. Magari speriamo sul giornale, perché ti abbiamo iscritto a un concorso di bellezza per bambine. Ma come per bambine? Sì, beh, ci sono solo per bambine vabbè, non l'abbiamo allora trovato. Perché bisogna iscrivermi per forza? Sei tu l'unico che conosciamo. Vogliamo provare a capire, è un progetto situazionista. Cioè, iscriviamo un bambino a un concorso di bellezza per bambine e vediamo come va.